300. Bue alla California. Chi studiò questo piatto, non sapendo forse come chiamarlo, gli applicò questo strano titolo. Del resto poi, strani o ridicoli, sono quasi tutti i termini culinari. Le seguenti dosi sono quelle da me prescritte in seguito a diverse prove. Carne magra, senza osso, di vitella o di manzo, nella groppa, nella lombata o nel filetto, grammi 700, burro grammi 50, panna decilitri 2, acqua decilitri 2, aceto forte una cucchiaiata o più d'una se è debole. Mettete la carne al fuoco col detto burro, mezza cipolla tagliata in quattro spicchi e una carota a pezzetti, sale e pepe per condimento. Quando la carne sarà ben rosolata, versate l'aceto, dopo alquanto l'acqua, e indi la panna. Fate bollire adagio circa 3 ore, ma se il sugo venisse a scarseggiare, aggiungete un'altra po' d'acqua. Mandate la carne in tavola, tagliata a fette e col suo sugo passato dallo staccio. In un pranzo di vari piatti potrà bastare per 5 o 6 persone.